30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. 16 ottobre 1984, Grégory Villemain, 4 anni e mezzo, viene trovato annegato in un fiume dei Vosgi, nei pressi del villaggio di Dossel, dove abita con la famiglia. Il piccolo è stato gettato vivo in acqua, aveva mani e piedi legati e non ha potuto fare nulla per salvarsi. L'orribile omicidio per 25 anni è stato senza soluzione, molti indagati, nessun colpevole accertato. Ora, invece, il DNA ritrovato sulla busta di una lettera fa riaprire il caso. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans votre édition du 13h. Dans ce journal, nous parlerons d'abord de ce rebondissement important dans l'affaire du petit Grégory. Deux ADN ont été retrouvés sous un timbre et sur une enveloppe du corps. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca. Dunque, da questa novità nel caso di Grégory Villemain parte questa nostra puntata. Parleremo naturalmente di DNA, di storie del DNA tra crimini, misteri, battaglie legali. Questa sera con noi Alice Andreoli, giornalista, autrice di Identità alla prova, un saggio pubblicato per Sironi Editori in cui affronta proprio il percorso di questa tecnica che ha cambiato di fatto la nostra storia. Sì, è così. Il test del DNA viene scoperto il 10 settembre del 1984, siamo in Inghilterra, all'Università di Leicester, dal professor Alec Jeffries, diventato poi baronetto della regina. Restiamo nell'anno 1984, ma cambiamo scena dall'Inghilterra, dal Regno Unito, all'Argentina. Nel 1984 in Argentina accade un fatto cruciale per la storia del test del DNA, cioè per la prima volta una Corte Suprema ammette una prova scientifica per accertare la parentela di una bambina. Per la prima volta le nonne di Plaza de Mayo, cioè le mamme e le madri dei desaparecidos, riescono a portare in tribunale una prova scientifica, è un test del sangue. Un test diciamo molto rudimentale, un test genetico molto rudimentale, però l'84 segna proprio, è una data cruciale per questa ragione. Alcune di loro conservavano i dentini dei nipoti, alcune avevano delle ciocche di capelli, avevano fatto un giro per il mondo. L'avventura di alcune di queste nonne, di mamme di Plaza de Mayo è incredibile, fanno letteralmente il giro del mondo per costruire di fatto la possibilità di avere una prova. Sì, gli scienziati inizialmente non riescono a dare una risposta, perché è vero che esistono dei test del sangue che sono in grado già in quegli anni di dimostrare la parentela tra un padre e un figlio, ma dimostrare una parentela tra un nonno e un nipote non è facile. Ma naturalmente il test del DNA diventa, esplode anche un po' nella conoscenza collettiva intorno a dei casi giudiziari. It looks like my neighbor Kirk, and this is how it all began. Questa è la voce di Kirk Bloodsworth, 10 anni di carcere, scagionato poi proprio dalla prova del DNA. Sì, il caso di Kirk Bloodsworth è un caso importantissimo, perché è la prima volta che una persona, un uomo condannato alla pena di morte, viene scagionato grazie alla prova del DNA. Il crimine di cui è accusato è un crimine orribile, l'omicidio di una bambina di 9 anni, stuprata e uccisa nel Maryland, proprio nel 1984. E sarà il test del DNA di cui lui saprà per caso in carcere a scagionarlo, appunto dopo quasi 9 anni. Ecco, il test del DNA dunque può essere determinante, ma ci sono alcune domande che vanno fatte. Si può sfidare il test del DNA oppure, come dire, una volta che c'è un verdetto è definitivo? Ci sono stati dei casi in cui il test del DNA ha fallito? Sì. Ci sono stati dei casi in cui ha fallito, e non perché il test non sia attendibile, anzi la prova del DNA è la prova scientifica più solida, non c'è paragone tra il DNA e le altre prove scientifiche, però come ogni impresa umana è fallibile. In questo senso, quando noi abbiamo davanti un test del DNA, la risposta non è un sì o un no, il test del DNA esprime una probabilità che due individui, che due DNA siano provenienti dalla stessa, che due profili del DNA siano provenienti dalla stessa persona. Se vogliamo immaginarlo con una metafora, se noi entrassimo in una stanza bendati e trovassimo una sedia a dondolo in quella stanza, poi uscissimo ed entrassimo in un'altra stanza e trovassimo la stessa sedia a dondolo nello stesso punto, potremmo dire che è la stessa stanza? Beh, diciamo è probabile, ma non è detto. Se su quella sedia a dondolo troviamo un gatto e nella successiva stanza accade lo stesso, le probabilità aumentano. Ecco, il test del DNA funziona in questo modo. Sono accaduti dei casi in cui il test del DNA ha fallito ed è successo più di una volta, sono almeno una decina i casi in cui la prova ha fallito. Perché? Ci sono dei tecnici di laboratorio che non sono stati preparati, sono scoppiati grossi scandali in America. C'è un ragazzo famoso in America, si chiama Josiah Sutton, lui era stato accusato di stupro. Ebbene, aspettava con ansia il test del DNA. Quando il suo avvocato è arrivato gli ha detto: brutte notizie, la prova del DNA dice che sei stato tu. E quel test era stato condotto in maniera errata. In realtà la macchia trovata sulla macchina dove era avvenuto lo stupro, una macchia di liquido seminale, non apparteneva a questo ragazzo, ma escludeva insomma la possibilità che fosse stato lui l'autore del crimine. Eppure un tecnico di laboratorio per inadeguatezza, a volte anche perché i tecnici di laboratorio possono essere persone molto vicine alla polizia e quindi essere molto interessate ad avere a portare un risultato positivo. The script that's written in our genes directs us from behind the scenes, the words within it shape life's destiny. Hidden in your DNA is your genetic dossier, it tells your future and your history. How traits get passed from parents to a child is something that has kept us so beguiled. Insomma, le ragioni dell'errore in fondo sono quelle classiche, può essere appunto l'inadeguatezza o se non addirittura il dolo. Di certo, quando l'operazione viene compiuta nel rispetto dei termini, dei canoni e appunto dei protocolli, le probabilità diventano molto alte. Beh, certamente, insomma, il test del DNA è una prova quasi inattaccabile, però ricordiamo sempre che esprime una probabilità, non è la stessa cosa dire c'è una probabilità di errore di 1 su 5 miliardi, non è la stessa cosa che dire la probabilità di errore è 1 su 60. 30 minuti in cronaca. La controversa storia del test del DNA tra crimini, misteri e battaglie legali è quello di cui si è occupata Alice Andreoli questa sera, nostra ospite, per parlare di DNA. Abbiamo sentito come questa tecnologia abbia di fatto cambiato significativamente parte dell'attività forense degli ultimi 25 anni, come abbia riaperto dei casi chiusi, come abbia anche contribuito a scrivere e riscrivere la storia recente, appunto partendo dall'Argentina, ma non solamente in quel caso. Sentiamo allora invece come questa cultura, questa tecnologia ha raggiunto l'Italia. Quando il primo caso, Alice? Il test debutta in Italia nel gennaio dell'87, quando viene uccisa una studentessa varese, si tratta del caso di Lidia Macchi. Gli inquirenti italiani vanno in Inghilterra per fare il test, perché in Italia nessuno sapeva farlo. Però purtroppo c'è una delusione, cioè il materiale è troppo scarso, non c'è un risultato. Così accade anche nel caso dell'omicidio di Giancarlo Siani, il giornalista. Si cerca il DNA nei mozziconi di sigaretta lasciati probabilmente dai suoi sicari senza successo. Poi ci sarà il caso Cesaroni, l'omicidio di Via Poma nel 90, quello di Alberica Tiro della Torre nel 91, e anche questi sono casi di insuccesso per una inadeguatezza della tecnologia. Il test diventerà affidabile solo nella metà degli anni 90. È finito tutto. Non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Però ci sono stati dei successi già a partire dal 92, cioè con la strage di Capaci. Dei mozziconi di sigaretta vengono trovati sulla collina dove la mafia ha preparato l'attentato di Capaci, e grazie al test del DNA si arriva agli esecutori. Il test cambia dunque nel corso di questi anni. Qual è il cambiamento principale? Come si diventa più precisi? Quali sono appunto le trasformazioni e che ruolo svolgono i marcatori in questa trasformazione? Ma diciamo, si tratta di una messa a punto sia strettamente biologica, ma soprattutto una messa a punto statistica. Il problema del calcolo statistico è la parte più importante per quanto riguarda l'affidabilità. Il test cambia anche pelle, nel senso che sì, a partire dagli anni 90 vengono scoperti dei nuovi marcatori, cioè dei nuovi punti del DNA, perché non si va, quando si fa un test DNA non si va a leggere tutto il DNA, non avrebbe senso, perché il DNA è uguale al 99,5%, cioè solo uno 0,5% che cambia tra le persone. Si cercano le differenze dunque? Si cercano delle differenze, che sono differenze puntiformi. Ci sono dei punti in quello 0,5% che sono molto variabili tra le persone. Una volta che vengono individuati quei punti molto variabili, è chiaro che il test è molto affidabile. Insomma, maneggiare il DNA significa anche conoscerlo meglio, quindi con il passare degli anni il test si fa via via più preciso. Sì, è così. Oggi possiamo dire che il test ha un'attendibilità quasi assoluta, sempre che il DNA non sia contaminato, che le tracce non siano miste, non è sempre vero. Che cosa significa DNA contaminato? Per esempio che il DNA è sottoposto a degradazione, ci possono essere delle muffe, dei batteri che contaminano le cellule e distruggono il DNA. Quando io vado ad analizzare delle tracce molto piccole, io potrei trovare il DNA anche di una muffa, perché anche le muffe hanno il DNA, anche i batteri hanno un DNA. E quindi questo potrebbe portarmi a un risultato assolutamente fuorviante. Quindi per le tracce molto degradate, il test del DNA è sempre un test delicato, un test che va preso con le molle. In our genes directs us from behind the scenes. The words within it shape life's destiny. Hidden in your DNA is your genetic dossier. It tells your future and your history. Un test da maneggiare con molta cura. Nel frattempo però si evolve e permette anche di prendere in considerazione, diciamo, non solamente la prova di personalità piuttosto che di paternità, ma anche le relazioni familiari, cioè i casi possono essere risolti anche per via indiretta. Sì, perché oggi non è necessario che il DNA di una persona trovato su una scena di un crimine sia dentro una banca dati. Ma basta semplicemente che il parente, una persona imparentata con l'autore del crimine, sia dentro una banca dati. Questo accade molto frequentemente in Inghilterra, dove il DNA è prelevato con grande frequenza anche per reati minori come la rissa, la guida in stato di ebbrezza. Quindi cosa succede? Che io posso trovare un DNA affine dentro una banca dati e a partire da quella persona che non è l'autore del crimine posso arrivare per familiarità al responsabile. Ecco, cioè se io sono per esempio sospettato di essere stato su un luogo del crimine e nella banca dati c'è invece il DNA di mio padre, questa associazione può portare alla mia condanna? Sì. Ovviamente dipende da che tipo di prova, di che tipo di prova stiamo parlando, perché ormai il DNA si può prendere da pochissime cellule, quindi io potrei trovare il mio DNA nella scena di un crimine perché magari sono stata a cena la sera prima da un mio amico. Certo. Però diciamo che questo è importante. Per esempio in Italia nel 2003 viene uccisa una donna anziana, stuprata e uccisa selvaggiamente, siamo sulle Dolomiti, a Dobbiaco. Viene estratto il DNA a tutti i maschi di quel paese e non c'è nessuna persona a cui corrisponda, però c'è un DNA che è imparentato e si tratta in questo caso del padre, perché è anche possibile stabilire che tipo di relazione c'è, cioè si tratta di anche persino un cugino. Cosa succede? Che si scopre, grazie a questa ricerca, che l'autore del crimine è il figlio di quest'uomo, un ragazzo di 19 anni, militare, che il giorno di Pasqua era venuto a trovare i genitori, si era ubriacato e aveva commesso questo crimine molto efferato. Ecco, questo è un caso molto interessante, anche perché, come ci spiegavi, c'è un coinvolgimento, uno screening di massa, ma questo naturalmente può avvenire solo perché c'è la disponibilità, in questo caso degli abitanti del villaggio appunto Alto Atesino, a mettere a disposizione il proprio materiale. Questa è stata un'operazione dei RIS, è avvenuta nel 2003 con la volontarietà, cioè i cittadini hanno dato il loro consenso a farsi prelevare il sangue. Perché? Perché la legge italiana in realtà non consente, non ha consentito fino proprio a quest'anno, a 25 anni dalla scoperta del test del DNA, quando è stata istituita la banca dati, non ha consentito il prelievo coatto, cioè solo oggi un magistrato può ordinare un prelievo coatto del DNA, perché per 25 anni in realtà noi non abbiamo avuto una banca dati del DNA e gli archivi dei RIS, piuttosto che della polizia scientifica, erano di fatto degli archivi che qualcuno considerava illegali, cioè che uscivano, diciamo, dalla legalità. Archivi dunque, da archivi a banca dati nazionale, ecco, questo sicuramente è l'elemento anche di svolta, è un po' quello che prefigura un futuro in cui le grandi banche europee accumuleranno informazioni genetiche sulla popolazione. Ma ecco, qua dobbiamo forse sfatare. Sfatiamo. Nel senso che l'Italia è un fanalino di coda in Europa, tutti i paesi europei hanno da anni ormai una banca dati nazionale del DNA e ricordiamo che grazie alle banche dati genetiche la percentuale di risoluzione dei crimini aumenta dal 6 al 60% e questo è un dato molto importante. Sfatiamo il mito della privacy, perché di fatto da un profilo del DNA non è possibile ricavare informazioni sulla privacy, come per esempio sulle malattie ereditarie, sui gusti di una persona. Sono informazioni che hanno semplicemente lo scopo e la finalità di identificare una persona, esattamente come un'impronta digitale. Quindi, insomma, questo rischio sulla privacy non c'è. L'indagine è partita quindi dal più tradizionale dei metodi, ovvero dall'identikit. Il merito di questo identikit è che è stato fatto un identikit molto preciso e puntuale, grazie alla straordinaria caparbietà, capacità e tenacia delle vittime. La selezione vincente si è rivelato il cosiddetto album dei parchi di Roma, cioè abbiamo scelto e immaginato che potessero essere soggetti abituali frequentatori dei parchi. L'efficienza, la capacità di arrivare a un risultato, d'altra parte, come ci spiegavi, è notevole. Dal 6 al 60% impressionante. Direi che di concludere con una battuta. Tra i delitti più recenti che ricordiamo c'è quello della Caffarella. In una prima fase ci fu, diciamo, un'indagine all'antica quasi, con una ricerca di prove indiziarie, poi subentra l'intervento del DNA. Ecco lì che cosa è accaduto: due colpevoli arrestati, poi scagionati, poi altri due. Dal punto di vista appunto dell'indagine, che cosa accadde? Dal punto di vista delle indagini si può dire che è stato commesso un errore, nel senso che il test del DNA non è un optional nei casi di stupro. E vorrei ricordare che in America un indagato su quattro viene scagionato nel corso delle indagini preliminari dopo il test del DNA, quindi diciamo è stato un passo falso, questo perché ovviamente in buona fede, perché c'era stata una confessione. Ora c'è stata una polemica sul fatto che la confessione fosse stata estorta, questo ci porta poi lontano. Certo. Però di fatto è importante ricordare questo, perché forse nel nostro paese questa cultura ancora non è così solida come in America. Il test del DNA in un caso di stupro viene prima. Ricordiamo anche il caso Bianchini, quest'uomo che uno stupratore seriale a Roma, la polizia lo arresta dicendo è lui lo stupratore, il test del DNA ci ha dato la conferma, e lui nega, lui dice voglio un altro test del DNA, e per alcuni giorni siamo rimasti col fiato sospeso attendendo il nuovo risultato. Ecco, in questo caso è una prova, come dire, il test del DNA ripetuto in presenza dell'avvocato difensore ha dimostrato inequivocabilmente chi era il responsabile di quel crimine. Perché? Perché una confessione o una testimonianza oculare non ha la forza di una prova scientifica come il test del DNA. Grazie ad Alice Andreoli, lo ricordo, ha pubblicato Identità alla prova, la controversa storia del test del DNA tra crimini, misteri e battaglie legali, edito da Sironi. Noi siamo arrivati alla conclusione, ringrazio in studio Paolo Corleoni, vi rimando come sempre a radio24.it per sentire e risentire questa e le altre trasmissioni di Radio 24. Un saluto e un buon fine settimana a tutti voi.